Quanto è bella l'amica fissa e quanta la mi sta va. Tutta gina ripetinissi e come le sa porta. E con noi ci guarda in terra e con noi la muria. Quanto è bella l'amica fissa e quando lo pana. Colu vento deli minni la harina per la ruva e con noi ci guarda in terra e con la muria. Quante bella la mica fissa e quando alla scuola va a una mano porta il libro e da una giulucola ma e con noi ci guarda in terra e con la giulamuria.